Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Attraverso i rami dell'acero si vedeva la luna piena nel cielo limpido della sera. I tigli e le acace coprivano la terra del giardino di un complicato arabesco di macchie. La trifora del bovindo, aperta ma velata dalla tenda, era rischiarata da una violenta luce elettrica. Nella camera da letto di Margherita Nikolaevna erano accese tutte le lampade e illuminavano il gran disordine della stanza. Sulla coperta del letto giacevano camiciuole, calze e capi di biancheria. Altri capi spiegazzati erano sparsi semplicemente sul pavimento, accanto a una scatola di sigarette schiacciata nel trambusto. C'erano scarpette sul tavolino da notte, vicino a una tazza di caffè semipiena e a un portacenere in cui fumigava una cicca. Sullo schienale di una seggiola era appeso un abito da sera nero. La stanza odorava di profumo. In essa, inoltre, arrivava da chissà dove un odore di ferro da stiro arroventato. Margherita Nikolaevna sedeva davanti alla specchiera, vestita soltanto di un accappatoio da bagno gettato sul corpo nudo e con scarpette nere scamosciate. Un braccialetto d'oro con orologino era posato davanti a lei, accanto alla scatoletta ricevuta da Asasello, ed ella non staccava gli occhi dal quadrante. In certi momenti Margherita cominciava ad avere l'impressione che l'orologio si fosse rotto e che le lancette non si muovessero, ma si muovevano, seppur molto lentamente, come se si appiccicassero, e alla fine la lancetta lunga calò sul 29° minuto delle 9. Il cuore di Margherita batté così forte che essa non riuscì neppure a prendere subito la scatoletta. Riavutasi, la perse e vide in essa una crema grassa, giallognola. Le sembrò che sapesse di limo di palude. Con la punta di un dito Margherita depose un piccolo fiocco di crema sulla palma, mentre diventava più intenso l'odore di erbe di palude e di bosco, e poi con la mano cominciò a spalmarsi la crema sulla fronte e sulle guance. La crema si spalmava facilmente, come sembrò a Margherita, si volatizzava subito. Dopo aver fatto alcune frizioni, Margherita diede un'occhiata allo specchio e lasciò cadere la scatoletta proprio sul vetro dell'orologio, che si coprì di incrinature. Margherita chiuse gli occhi, poi guardò ancora una volta e scoppiò a ridere sfrenatamente. Le sopracciglia depilate all'estremità e ridotte a un filo dalla pinzetta s'erano infoltite e come neri archi uniformi sormontavano gli occhi, divenuti verdi. Era svanita senza lasciar tracce la sottile ruga verticale che tagliava la radice del naso, che era comparsa quella volta in ottobre, quando era sparito il maestro. Erano svanite anche le ombre giallognole alle tempie e ai due reticoli, appena visibili, nell'angolo esterno degli occhi. La pelle delle guance era soffusa in un uniforme color roseo. La fronte s'era fatta bianca e pura, e s'era disfatta l'ondulazione artificiale dei capelli. Dallo specchio una donna ventenne, coi capelli neri, ricciuta di natura, guardava la Margherita trentenne e rideva irrefrenabilmente, mostrando i denti. Dopo aver riso a sazietà, con un balzo solo, Margherita sgusciò fuori dall'accappatoio, attinse abbondantemente la leggera crema grassa e, picchiettando forte, cominciò a stenderla sulla pelle del corpo, che prese subito una tinta rosea e abbronzata. Istantaneamente, come se le avessero estratto un ago dal cervello, cessò il dolore alla tempia che l'aveva fatta soffrire tutta la sera dopo l'incontro del giardino Aleksandrovski. I muscoli delle braccia e delle gambe si rassodarono, dopodiché il corpo di Margherita perdette il suo peso. Essa fece un salto e rimase sospesa in aria, a poca distanza dal tappeto, e poi qualcosa la trasse in basso lentamente ed essa calò giù. «Che crema! Che crema!» gridò Margherita buttandosi nella poltrona. Le frizioni non l'avevano mutata solo esteriormente. Adesso in lei, in tutto il suo essere, in ogni minima particella del suo corpo, ribolliva una gioia che si sentiva come se ci fossero tante bollicine che le pungessero tutto il corpo. Margherita si sentì libera, libera di ogni cosa. Essa comprese inoltre con la massima chiarezza che era avvenuto per l'appunto ciò che quel mattino le diceva il suo presentimento, e che essa avrebbe abbandonato per sempre la palazzina e la sua vita di prima. Ma da questa vita di prima s'era separata, non di meno, l'idea che le restava di adempiere un ultimo dovere prima che iniziasse la cosa nuova, straordinaria, che l'attirava in alto nell'aria ed essa, nuda com'era, saltando di continuo, corse dalla camera da letto nello studio del marito e accese la luce. Si precipitò alla scrivania. Su un foglio strappato da block notes scrisse in fretta e a matita, senza cancellature e a grossi caratteri, questo biglietto: «Perdonami e cerca di dimenticarmi al più presto. Ti lascio per sempre, non cercarmi, sarebbe inutile. Il dolore e le sventure che mi hanno colpito mi hanno fatto diventare una strega. Devo andare. Addio, Margherita». Con animo perfettamente sollevato, Margherita volò nella camera da letto, dove dietro di lei entrò correndo Natascia, carica di roba. E subito tutta questa roba, una gruccia di legno con un vestito, fazzoletti di pizzo, scarpe di seta blu messe in forma e una cintura, tutto quanto si sparse per terra. Natascia alzò le braccia, non più ingombre, e batté insieme le mani. «Beh, sono bella!» gridò forte con voce arrochita Margherita Nikolaevna. «Ma che è stato?» sussurrò Natascia arretrando. «Come ha fatto? Margherita Nikolaevna! E la crema! La crema! La crema!» rispose Margherita, indicando la scintillante scatoletta d'oro e rigirandosi davanti allo specchio. Natascia, dimenticandosi dell'abito sgualcito che giaceva in terra, corse allo specchio e, con occhi pieni di ardente cupidigia, considerò il residuo della crema sussurrando fra sé, e poi si volse di nuovo verso Margherita e disse quasi con venerazione: «La pelle... Ah, che pelle! È luminosa la sua pelle, Margherita Nikolaevna!» Ma subito dopo tornò in sé, corse verso il vestito, lo raccattò e cominciò a scuoterlo. «Lasci stare! Lasci stare!» gridò Margherita. «Al diavolo il vestito! Pianti tutto lì! Anzi, no! Vabbè, se lo prenda per ricordo!» «Sì, per ricordo, ho detto! Si prenda tutto quello che c'è nella stanza!» Come istupidita, Natascia la guardò immobile per un po' di tempo. Poi... e si appese al collo, baciandola e gridando: «Sembra raso, luminosa, sembra raso, e le sopracciglia, oh, le sopracciglia! Prenda tutti i miei stracci, prenda i profumi e li porti in camera sua e li nasconda nel baule!» gridava Margherita. «Ma non prende i gioielli, l'accuserebbero di furto!» In quel momento, dall'altra parte della strada, da una finestra aperta, si sprigionò e prese il volo un fragoroso valzer brillante e si sentì lo sbuffare di una macchina che si avvicinava al portone. «Fra un attimo telefonerà Asasello!» esclamò Margherita, ascoltando il valzer che si spargeva per il vicolo. «Telefonerà, e quello straniero non è affatto pericoloso. No, no, no, no, adesso capisco che non è pericoloso!» La macchina rombò allontanandosi dal portone, il cancello sbatté e si udirono dei passi sulle mattonelle del viale. «È Nikolaj Ivanovich, lo riconosco dal passo», pensò Margherita. «Prima d'andarmene dovrei fare qualcosa di buffo e di curioso». Margherita tirò via la tenda e sedette di sghembo sul davanzale, cingendosi il ginocchio con le braccia. Alzò il capo verso la luna e prese un'aria pensosa e poetica. I passi risuonarono ancora un paio di volte e poi cessarono di colpo. Continuando ad ammirare la luna, sospirando come di prammatica, Margherita volse la testa verso il giardino e scorse infatti Nikolaj Ivanovich, che abitava al piano inferiore di quella stessa palazzina. La luna inondava di luce Nikolaj Ivanovich. Egli sedeva sulla panchina e tutto faceva capire che vi si era lasciato cadere di schianto. Gli occhiali a molla gli stavano un po' storti sul viso ed egli stringeva fra le mani la sua cartella. In quel momento, alle spalle di Margherita, il telefono squillò in camera da letto. Margherita saltò giù dal davanzale e, dimenticando Nikolaj Ivanovic, afferrò il ricevitore. «Parla Sasello», disse qualcuno nel ricevitore. «Ah, caro, caro Sasello», esclamò Margherita. «E ora, pigli il volo», disse Sasello, e dal suo tono si capiva che era contento del sincero, gioioso slancio di Margherita. «Quando sorvolerà il portone, gridi «sono invisibile», poi voli sulla città per abituarsi e quindi verso il sud, fuori città, e poi dritto al fiume. L'aspettano». Margherita riattaccò e in quel momento nella stanza attigua un coso di legno si mise in moto zoppicando e cominciò a battere contro la porta. Margherita la spalancò e la spazzola da pavimenti col corpo di setole all'insù irruppe danzando nella camera da letto. Con l'estremità del manico picchierellava, scalciava e cercava di raggiungere la finestra. Per l'entusiasmo Margherita cacciò uno strillo e saltò a cavallo della spazzola. Ecco, solo in quel momento venne in mente all'amazzone che in quella confusione essa aveva dimenticato di vestirsi. E galoppò verso il letto e afferrò la prima cosa che le capitò, un camicino celeste. Brandendolo come uno stendardo, spiccò il volo verso la finestra e il valzer rimbombò più forte sopra il giardino. Dal finestrino Margherita scivolò giù e scorse Nikolaj Ivanovic sulla panca. Sembrava raggelato su di essa e completamente sbalordito. Ascoltava le grida e il tramestio che giungevano dalla camera da letto illuminata degli inquilini di sopra. «Addio, Nikolaj Ivanovic!» gridò Margherita, ballonzolando davanti a lui. E gli mandò un gemito. Strisciò lungo la panchina, passandoci sopra le mani e buttando in terra la sua cartella. «Addio per sempre! Io volo via!» «Volo via!» gridava Margherita, soverchiando il valzer. In quel punto si rese conto che il camicino non le serviva a niente e con una risata sinistra coperse con esso la testa di Nikolaj Ivanovic. Nikolaj Ivanovic, accecato, piombò giù dalla panchina sui mattoni del fiale. Margherita si voltò a guardare per un'ultima volta la palazzina dove aveva sofferto per tanto tempo e alla finestra fiammeggiante scorse il viso di Natascia, stravolta dallo stupore. «Ciao, Natascia!» gridò Margherita e tirò sulla spazzola. «Sono invisibile! Sono invisibile!» gridò ancora più forte e di tra i rami dell'acero che le sferzavano il viso, dopo aver superato il portone, sbucò, volando nella strada. E dietro di lei spiccò il volo il valzer, completamente impazzito. Thank you. Sono invisibile e libera. Sono invisibile e libera. Dopo aver volato per un po' sopra il suo vicolo, Margherita capitò sopra un altro che tagliava il primo ad angolo retto. In un attimo percorse questo vicolo rappezzato, rammendato, storto e lungo, e a quel punto realizzò che, pur essendo perfettamente libera e invisibile, doveva però essere un po' giudiziosa anche nel piacere. Soltanto per essere miracolosamente riuscita a frenarsi, non era andata a sfracellarsi contro il vecchio e storto lampione dell'angolo. E dopo averlo scansato, Margherita strinse più forte la spazzola e si mise a volare più lentamente, badando ai fili dell'elettricità e all'insegna appese trasversalmente al marciapiede. Il terzo vicolo portava dritto all'Arbat. A questo punto Margherita s'era del tutto avvezzata a guidare la spazzola. Aveva compreso che essa obbediva al minimo tocco delle mani e dei piedi e che, sorvolando la città, doveva stare molto attenta a non folleggiare troppo. Inoltre, fin dal vicolo, era apparso ben chiaro che i passanti non vedevano la volatrice. Nessuno alzava il capo, nessuno gridava «Guarda, guarda!», nessuno si tirava bruscamente in là, nessuno strillava o sveniva o scoppiava in una risata balorda. Margherita diede un altro strattone e allora la massa di tetti sprofondò sottoterra e al suo posto apparve in basso un lago di tremolanti luci elettriche. Questo lago si sollevò un tratto verticalmente, dopodiché comparve sopra la testa di Margherita e la luna brillò sotto i suoi piedi. Margherita capì che si era ribaltata, riprese la sua posizione normale e, voltandosi indietro, vide che il lago non c'era più e che laggiù, dietro di lei, era rimasto soltanto un bagliore rosato all'orizzonte. Anch'esso svanì dopo un attimo e Margherita s'accorse d'essere sola con la luna che volava a sinistra sopra di lei. Oh, da un pezzo i capelli di Margherita s'erano aggrovigliati insieme e il chiaro di luna le lambiva il corpo con un sibilo. Dal fatto che in basso le due file di luci rade si erano fuse in due linee ininterrotte e dalla rapidità con la quale esse scomparvero, Margherita intuì che volava a una fantastica velocità e fu sorpresa di non rimanere senza fiato. Trascorsi pochi secondi, laggiù, in lontananza, nel nerume della terra s'accese un nuovo bagliore di luce elettrica che venne ad abbattersi sotto i piedi della volatrice, ma subito dopo si avvitò e precipitò sulla terra. Dopo qualche secondo, di nuovo lo stesso fenomeno. La città! Gridò Margherita, e dopo di questo per due o tre volte essa vide sotto di sé delle specie di sciabole baluginanti racchiuse entro nere guaine aperte, e comprese che erano fiumi. Volgendo la testa in su e a sinistra, essa mirava la luna che, come impazzita, filava indietro sopra di lei verso Mosca, e, cosa strana, nello stesso tempo rimaneva immobile, cosicché si vedeva distintamente su di essa un che di misterioso e di scuro, forse un drago, forse un cavallino alato col muso aguzzo rivolto verso la città abbandonata. In quel punto Margherita fu assalita dal pensiero che, in fondo, non avrebbe dovuto far volare così freneticamente la spazzola, perché si privava della possibilità di osservare bene le cose e di inebriarsi del volo, come si conviene. Qualcosa le diceva che là, dove era diretta, l'avrebbero aspettata e che quindi era inutile sottoporsi al fastidio di una velocità e di un'altezza così insensate. Margherita inclinò in avanti la spazzola, la cui coda si sollevò, e rallentando molto scese verso terra. E questo scivolare giù, come in toboga, le procurò un grandissimo piacere. La terra si alzò verso di lei e in quella che era stata fino allora un'uniforme massa nera si andavano palesando i segreti e i fascini della terra in una notte di luna. La terra saliva verso Margherita e già l'investiva l'odore dei boschi verdeggianti. Sorvolò, sfiorandola quasi, la bruna che copriva un prato rugiadoso, poi uno stagno, e sotto di lei le rane cantavano in coro e da lontano giungeva il rumore di un treno che la commuoveva profondamente, e chissà perché, e Margherita non tardò a scorgerlo. Strisciava lento come un bruco, seminando scintille nell'aria. Oltrepassatolo, essa volò ancora sopra uno specchio d'acqua in cui galleggiava una seconda luna. Poi si abbassò ancora di più e proseguì, sfiorando quasi coi piedi le vette degli pini giganteschi. Si sentiva un greve rumore di aria solcata che cominciava a raggiungere Margherita. A poco questo rumore di un oggetto volante, forse un proiettile, si unì a una risata femminile, udibile a molte verste di distanza. Margherita si voltò e s'accorse che era inseguita da un oggetto scuro e complicato. Via via che si avvicinava a lei si profilava sempre meglio e si cominciava a vedere che era qualcuno che volava a cavallo. Infine si delineò completamente. Rallentando, Natasha raggiunse Margherita. Interamente nuda, coi capelli scarmigliati che volavano per aria, essa cavalcava un grosso verro, il quale stringeva fra le zampe anteriori una cartella e con le posteriori martellava l'aria. Di quando in quando un paio di occhiali a molle che sfavillavano al chiaro di luna e poi si spegnevano cadendogli dal naso svolazzavano a fianco del verro e il cappello gli scivolava tutto il tempo sugli occhi. Esaminatolo ben bene, Margherita riconobbe nel verro Nikolaj Ivanovich. E allora la sua risata risuonò sopra il bosco, mischiandosi con quella di Natasha. «Natasha!» gridò Margherita con voce acuta. «Ti sei data la crema?» «Gioia mia!» rispose Natasha, ridestando con i suoi schiamazzi la pineta addormentata. «Mia regina francese! Gliel'ho data anche a lui sulla zucca pelata! Anche a lui!» «Principessa!» urlò il verro con voce piagnucolosa, portando al galoppo la sua cavalcatrice. «Margherita Nikolaevna, gioia mia!» gridava Natasha galoppando a fianco di Margherita. «Lo confesso, ho preso la crema. Anche noi altre, sa, vogliamo vivere e volare, mi perdoni sovrana, ma io non tornerò, neppure dipinta tornerò. Ah, che bellezza Margherita Nikolaevna! Ha chiesto la mia mano!» E Natasha indicò col dito il collo del verro ansimante e vergognoso. «Me l'ha chiesta! Come mi hai chiamata, eh?» gridò Natasha chinandosi all'orecchio del verro. «Oh, dea!» ululò questi. «Non posso volare così presto. Potrei perdere qualche carta importante, Natalia Prokofievna. Io protesto!» «Va un po' al diavolo tu e le tue carte!» gridò Natasha, ridendo sguaiatamente. Che dice mai, Natalia Prokofievna? Potrebbero sentirci, urlò il Verro in tono di implorazione. E mentre volava a fianco di Margherita, Natascia le raccontò fra le risa quanto era accaduto nella palazzina dopo che Margherita Nikolaevna aveva valicato a volo il portone. Natascia confessò che senza più toccare alcuna delle cose a lei regalate, si era spogliata in furia, si era buttata sulla crema e se l'era immediatamente passata. E le era accaduto lo stesso che alla sua padrona. E mentre Natascia, ridendo di gioia, si inebriava della sua magica bellezza davanti allo specchio, la porta si era aperta e le era comparso dinanzi Nikolaj Ivanovich. Era agitato, teneva in mano il camicino di Margherita Nikolaevna, nonché il proprio cappello e la cartella. Vedendo Natascia, Nikolaj Ivanovich era allibito. Ha riavutosi un po', rosso come un gambero, aveva dichiarato che s'era creduto in dovere di raccattare il camicino e di riportarlo personalmente. «Cosa non ha detto quel mascalzone?» strillava e rideva Natascia. «Cosa non ha fatto per adescarmi? Quanto denaro ha promesso? Diceva che Claudia Petrovna non avrebbe saputo nulla. Su, parla, dico bugie!» gridò Natascia al Verro e questi, tutto vergognoso, si limitò a voltare il muso dall'altra. Dopo aver folleggiato in camera da letto, Natascia aveva unto con la crema Nikolaj Ivanovich e lei stessa era rimasta sbalordita. La faccia del rispettabile inquilino del piano di sotto s'era ridotta a un grugno. Ai piedi e alle mani gli erano spuntati gli zoccoli. Guardatosi nello specchio, Nikolaj Ivanovich aveva cacciato un urlo selvaggio e disperato, ma era troppo tardi. Pochi secondi dopo, cavalcato da Natascia, egli volava via da Mosca, sa il diavolo dove, singhiozzando di dolore. «Esico che mi venga restituito il mio aspetto normale!» rantolò e grugnì a un tratto il Verro con tono fra il disperato e il supplichevole. «E non intendo volare a un assembramento illegale! Margherita Nikolaevna, lei ha l'obbligo di ridurre alla ragione la sua cameriera!» «Ah, sicché adesso sarei la cameriera per te? La cameriera!» gridava Natascia pizzicando l'orecchio del Verro. «E non ero una regina, non mi chiamavi così!» «Venere!» rispose lamentosamente il Verro, volando sopra un torrente spumeggiante fra le rocce e sfiorando con gli zoccoli i cespugli di avellana. «Venere! Venere!» proclamò vittoriosamente Natascia, mettendosi una mano sul fianco e protendendo l'altra verso la luna. «Margherita! Regina, interceda per me affinché mi lascino continuare a essere strega. Per lei faranno tutto. Lei è potente!» E Margherita rispose: «Va bene, lo prometto.» «Grazie!» esclamò Natascia e all'improvviso si mise a gridare in tono brusco e anche un po' malinconico: «Arri! Arri! Più presto, su, dai, dai!» Ella strinse fra i calcagni i fianchi del Verro, dimagriti durante la folle galoppata, ed egli diede una strappata tale che riprese a fendere l'aria. Dopo un attimo, Natascia non era più che un puntino nero. Poi scomparve del tutto e il rumore del suo volo si dileguò. Thank you.